Perché? Questa è la domanda che più spesso mi pongono. Pourquoi? Perché? A che scopo? Perché tu cammini sul filo? Perché tu sfidi il destino? Per me, camminare sul filo è la vita. Sì, la vita. I funamboli, cronache di un paese in equilibrio. Di Alessandro Milan, con Veronica Gentili e Leonardo Manera. Eccoci qui, siamo ritornati, funamboli, più funambolici che mai, alle 9:10 minuti, vero cara, vero? Ma buongiorno, inizia un'altra splendida settimana. Sono tiro. C'è no, andatevene a... Questo io lo so chi è il colpevole. Sento dei rumori. Sento dei rumori. Cos'hai fatto ieri? Ti ricordo che Ale? Tu sei agnostica malaziale, quindi non fare quella. Hai ragione, sei agnostica giusto, malaziale. Comunque mi segnalano che c'è stato un 6-1. So che è stato, insomma, a tennis, una part... a tennis, primo a set. Tennis, la Lazio ha vinto 6-1. So che il mio papà era molto di buon umore, quindi questo è giusto segnalarlo. Anche però... Valerio Rocchetti, me lo saluti il tecnico di Roma. Te lo saluto, caramente, guarda, caramente quando sta, lo incroci. Si sta veramente sbizzarrendo in non così, capisco gesti perché. di tutto. No, lui mi stava raccontando la sua domenica di ieri. Io invece ieri ho trascorso la domenica leggendo un poeta bosniaco di nome Jeko e mi sono dilettata nella lettura, devo dire, delle sue poesie. C'è stato un momento particolarmente significativo in cui, devo dire, ha toccato il cuore. Guarda, sei l'unica Jeko! Sei l'unica che mi fai ridere sulle sconfitte del Milan, ma se ti avessi qui di fronte. Va bene, cara Veronica. Però buona ieri non mi hai risposto settimana. Nulla, ti ho mandato una nota vocale su WhatsApp in cui ti facevo sentire le urla di giubilo dei miei vicini al piano di sotto. Allora, e non hai risposto niente. Allora, oggi abbiamo una puntata ricchissima, come sempre, di funamboli, parliamo di tanti temi. Ma, cari ascoltatori, non vogliamo, non possiamo non tenere sottofondo la notizia che accompagna da ieri tutta la giornata di Radio 24. Anche oggi, questi rumori di sottofondo sono un po' più tragici invece, non parliamo di calcio, ma quello che è successo ieri in Spagna, o dovremmo dire in Catalogna, adesso insomma ognuno poi la veda come vuole, è sicuramente uno strappo per cui dobbiamo segnarci questa data, 1 ottobre 2017, perché comunque si è arrivati, e comunque la pensiate, chiamateci all'800240024 a una situazione di non ritorno. Beh, senz'altro è un episodio che segna un momento storico, perché vengono al pettine tutta una serie di nodi, sia per la questione Spagna-Catalogna, che è una questione che resta lì latente da tempo e che è riemersa, sia perché chiaramente questo accende altri focolai in giro per l'Europa, a partire da casa nostra, anche se ha tutt'altro sapore ed è una situazione che è assolutamente costituzionale, molto diversa, ma in giro per l'Europa, come si è riaperto il fronte scozzese post Brexit e così via. Sì, e poi in giro in quell'Europa che è totalmente assente, ha dimostrato anche ieri la sua assenza. Io dico solo che se si voleva creare una situazione di non ritorno con certo un referendum considerato illegittimo da Madrid, ma con una risposta con i manganelli, ecco, se si voleva creare la situazione di non ritorno si è creata. Poi analizzare le colpe, le responsabilità. La sensazione, infatti, Alessandra, che al di là poi del parere personale che uno può avere sulla questione, ieri ci sia stato un po' un dialogo tra sordi e prima di ieri ancora in questi giorni, cioè i catalani hanno deciso di prendere la loro strada e l'hanno presa a prescindere, e Rajoy ha fatto quello che voleva fare, anche perché, diciamoci onestamente, che per lui era anche molto funzionale, essendo un premier molto molto debole, che internamente non ha nessun appeal, e quindi per rafforzarsi nell'opinione pubblica spagnola, in particolar modo dove la causa catalana non attecchisce, mostrare il polso duro e mostrarsi forte, lui che c'ha un governo appeso all'astensione dei socialisti, vabbè, ma questo era un'opportunità. È quello che ha prodotto, cioè dita spezzate, gente che è andata a votare anche se non era, come dire, consentito secondo la Costituzione, con le camicie macchiate di sangue, cioè, mi sembra veramente tante volte le immagini raccontano più dei resoconti, e quelle immagini dalla Spagna, dalla democratica Spagna, certo non infatti colpisce molto, anche perché poi era alternato a immagini estremamente vitali e festose all'interno della giornata. Comunque 800 24 00 24, se volete chiamarci su questo, se volete scriverci 349 238 6 333-2688-688-6666, WhatsApp, anche audio, anzi soprattutto bell'audio, così li mandiamo in onda. Ma noi iniziamo dai nostri primi due funamboli che raccontano di un altro tema. Senti come siamo rock oggi, senti il nostro Peter Pescapè come si è svegliato. Tu cerca di evitare di cominciare a dimenarti già adesso, no. Questa è l'ora in cui fingi un minimo di serietà prima e poi di farti insultare perché sei diventato, capito, una barzelletta nella seconda ora. È pur sempre, smettila, è pur sempre lunedì. Allora, l'altro giorno il Corriere della Sera poneva due pagine molto dense di numeri interessanti che riguardano il rapporto tra la pubblica amministrazione e le imprese e le aziende. Io dico solo due dati: i fornitori nella pubblica amministrazione nel 2016 da parte delle aziende, cioè i fornitori, sono stati per 159 miliardi di euro forniture alla pubblica amministrazione, sono state saldate 115 miliardi, quindi ne mancano 43 miliardi, sì, 43 miliardi. La matematica non è un'opinione, pare essere così. Il 2,58% del PIL che imprese hanno dato alla pubblica amministrazione, la pubblica amministrazione non ha saldato. Noi vogliamo salutare intanto un imprenditore, è un imprenditore della Tiflo System che è da anni anche un grande amico di Radio 24, è Davide Cervellin. Buongiorno Cervellin. Buongiorno, dal giorno della sua nascita. Accidenti. Mercoledì quindi compiamo 18 anni, tra l'altro. Appunto. Anche io. Anche Veronica Gentili, no? Veronica Gentili, non si dice di una signora, però non ne ha molti di più, Cervellin. Non molti di più, cioè, facciamo 18. Ha una bella voce giovane, infatti. Cervellin è imprenditore che ha fondato la Tiflo System, che è un'azienda straordinaria di Piombino Dese, in provincia di Padova, che possiamo dire è il fornitore numero uno di tutta la tecnologia per i non vedenti, per coloro che devono affrontare tra mille difficoltà e riescono così a leggere, a vedere, a fare, a muoversi, Cervellin? Siamo il fornitore numero uno, ma considerato come un non fornitore da parte di molte pubbliche amministrazioni, perché ci fanno gli ordini e poi non ci pagano. Ma che cosa succede, Davide? Qual è la dinamica in cui si blocca il meccanismo? Cioè, la pubblica amministrazione non paga con quali giustificazioni? Io credo che la dinamica, vediamo se riusciamo a spiegarla in poche parole. Sì. Noi abbiamo delle persone che hanno bisogno di strumenti per la loro vita indipendente, quindi non possiamo chiamarli certamente medicinali salvavita, voglio dire, no? No, però. Ma sono comunque delle tecnologie che fanno la differenza per la decisive vita di queste per la persone. Qualità della vita, certo. Esatto. Abbiamo la sfortuna che queste tecnologie vengono richieste da un numero non molto elevato di persone, che poi è una fortuna perché vuol dire che non ci sono tantissime persone con disabilità, no? Sì. Quindi noi non siamo un fornitore primario delle ASL, no? Sì. Mm-hmm. Perché magari dalle ASL avanziamo 40, 50, 60 mila euro, non siamo. Anche perché le ASL sono le peggiori in assoluto, addirittura peggio dei ministeri. Peggiori in assoluto. Allora, che cosa succede? Succede che le ASL, quando va la persona disabile, in particolare ipovedente, non vedente, a fare la richiesta, fa l'erogazione, cioè praticamente mette l'ordine, non si preoccupa di vedere se ha disponibilità di cassa, e poi quando noi emettiamo la fattura, che adesso la emettiamo in forma elettronica da ormai da oltre un anno, quindi insomma non hanno più la scusa di non vederla, ma rispetto agli altri fornitori, perché noi siamo nel calderone, no? Insieme a quelli che forniscono i medicinali salvavita, o quelli che forniscono. Vi mettono dietro. Vi mettono in coda. E quindi poi c'è un altro aspetto che va chiarito. Uno dice: ma perché solo la Tiflo System ha questi problemi e denuncia? Perché io ho incominciato a denunciare in maniera chiara fin dal 2007-2008 queste cose. Perché noi forniamo high tech, cioè tecnologie avanzate, macchine per leggere, puntatori oculari per gli ammalati di SLA, sono tutte tecnologie che hanno un po' una derivazione informatico-elettronica, e abbiamo i ricarichi dell'informatica e dell'elettronica, Cioè noi lavoriamo con le ASL con un 20%, forniamo un video imprenditore che andiamo a portare a Genova, magari al quinto piano senza ascensore, e insegniamo a usarlo alla, alla persona anziana con un margine di 200-250 euro. Ma ci aiuta a capire, allora, Cervellin, dove sono, quali sono le regioni o le ASL peggiori, quelle per cui credo anche la Tiflo System dice non lavoriamo più? Sono quelle dove adesso la Tiflo System non fornisce più. Per esempio? Con grande, per esempio la Calabria. La Calabria, io ho la Calabria, la Campania, ma in particolare Napoli, perché poi anche qui non sono le regioni, sono zone, situazioni zone, virtuose. Avellino paga puntualmente. Sì. Napoli non paga ormai. Ma noi infatti leggevo che qui c'è anni. Un'anomalia, che di solito c'è la classica divisione che tendiamo a fare in varie tematiche per le difficoltà del mezzogiorno tra nord e sud. In questo caso si sfugge a questa logica, perché ci sono delle città virtuose al sud, delle città virtuose al nord e viceversa. Assolutamente, assolutamente. Beh, è proprio un problema, secondo me, legato agli uffici e... io non vorrei, ma insomma, a volte ho il sospetto che questo è un paese dove c'è è un settore dove c'è molta corruzione, dove a volte la fattura che è messa sotto per farla emergere ci vuole l'aiutino, la telefonata. Qualcuno, esatto, però Cervellin, guardi, ci faccio salutare anche un sindaco che ci deve spiegare, perché il Sole 24 Ore di recente ha fatto una classifica sui comuni che pagano prima e i comuni che pagano dopo, e Andria, visto che la media era di 30-60 giorni per pagamento, risultava in testa per un pagamento a 192 giorni, che non sono proprio pochissimi. Ecco, salutiamo Nicola Giorgino, sindaco di Andria. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi. Allora, intanto siete migliorati, mi risulta, di qualcosa? Sì. Di quanto? Siamo a 179 giorni. Vabbè. Abbiamo ridotto di 20 giorni. Ma sindaco, è tutta colpa sua, perché lei si dimentica che c'ha altre cose da fare? No, assolutamente, perché anzi abbiamo fatto da diversi anni un'opera di razionalizzazione, di contenimento della spesa. Il problema è, sentivo anche l'intervento dell'imprenditore, ha ragione, ora c'è la fatturazione elettronica, per cui avviene tutto in modo molto trasparente, molto tracciato, per cui quelli che possono essere fenomeni di eccessiva burocratizzazione dovrebbero essere sgomberati. Il problema è che molto spesso la cassa degli enti ha delle influenze e delle incidenze negative a seconda di eventi sopravvenuti. Noi per esempio abbiamo dovuto riconoscere 35 milioni di euro di debiti fuori bilancio, quando arrivano sentenze che chiaramente ti pignorano la cassa per importi così rilevanti, hai una difficoltà. Sindaco, di però liquidità. Il fornitore è uno, perché chiama un fornitore se non ha una, capisco, cioè le forniture servono, perché se un comune non va avanti. La sentenza è sopravvenuta, se arriva una sentenza dove condannano l'ente a pagare 10 milioni di euro, che è esecutiva, chiaramente quella sentenza ti altera tutta la programmazione relativamente alla competenza e alla liquidità della cassa. Purtroppo il fenomeno dei debiti fuori bilancio è un fenomeno importante, sì, che per esempio negli enti locali paralizza di molto e rallenta di molto il pagamento rispetto. Comunque Veronica, salutiamo che da 192 è sceso a 179 giorni, non sono sempre facendo ulteriori sforzi, voglio per dire, perché non è che 179 sia una manna, 13 giorni buttali via, sono due settimane propizie che cui si può utilizzare già il denaro. Stiamo certamente facendo programmazione per ridurre e essere coerenti rispetto a questo. Anche perché ci sono imprese che muoiono strozzate dai crediti, cioè capite il paradosso, che hanno dei crediti, sindaco, e muoiono per questo. Di non avere più aziende, imprese disposte a rifornire la città di Andria di quello che serve, che, di cui ha necessità, perché a volte succede. A noi non è mai successo, quindi, anche perché i pagamenti relativamente alle opere pubbliche, si tratta di somme a destinazione vincolata, vengono effettuati tempestivamente, perché sono somme che vengono chiaramente, avendo una destinazione vincolata, vengono erogate immediatamente. vengono erogate. Sì, il problema è che, voglio dire, se uno fa una fornitura per il comune di Andria, ma come per una ASL a Calabria, come dice Cervellin, poi l'IVA la deve pagare, le tasse le deve pagare subito, i dipendenti le deve pagare subito. No, Cervellin, dico cose che lei sa a memoria. L'IVA ora con lo split payment lo paga l'ente. Sì, e certo, però tutto il resto, i dipendenti, Anticipare i soldi alla pubblica amministrazione su tutti i fronti. Sono un lavoratore autonomo e quindi ritengo che è giusto che chi lavora deve essere pagato tempestivamente. Sa di cosa si sta parlando. Vabbè, qui Cervellin, c'è qualcosa che avete in ballo di nuova tecnologia? Perché sono sempre... Allora, noi abbiamo molte cose, ma chiaramente siamo costretti a discriminare. Ad esempio, io ho delle ASL virtuose, ho scoperto, andando a vedermi un po' i dati sui flussi di cassa, che Treviso e Trento pagano addirittura anticipatamente rispetto alla scadenza. Ma ci sono delle cose strane. Il Corriere diceva, per esempio, che Expo paga molto, non ha pagato zero per il momento. La Camera dei Deputati è lentissima, il Senato della Repubblica è velocissimo. Sì, poi però ci sono dei paradossi di ministeri virtuosissimi, come quello dell'ambiente che paga con 20 giorni di anticipo. Dici, ma come mai la giustizia con 17 giorni di anticipo? No, noi abbiamo invece delle situazioni che abbiamo fatto delle forniture dei tribunali e lì il Ministero di Grazia e Giustizia è lentissimo. Lento. Con noi è lentissimo. Le statistiche come dicono che paghi con 17 giorni di anticipo. Le statistiche non so, generali. Forse ce l'hanno con voi. Ce l'hanno forse con noi. Non lo so. Questo no. La cosa per concludere è che poi io mi metto nei panni di un non vedente della Calabria, che è l'ultimo punto di questa filiera che potrebbe portargli sollievo con uno strumento, e che siccome la Tiflo System alla Calabria non dà più niente perché la Calabria non paga, poi dopo rimane, come dire, l'anello debole, no? Di tutta questa catena, Veronica, quello che non riceve poi non riceve sempre niente. È sempre quella la storia, perché poi chiaramente è un circolo vizioso e alla fine c'è chi resta senza materiale, senza fornitura, è chiaro. Comunque noi vi vogliamo ringraziare, sindaco di Andria Nicola grazie Giorgino, e grazie. Posso aggiungere una cosa, le statistiche in ogni caso non tengono conto di una indicazione numerica e aritmetica, perché si fa una sorta di media di pagamenti, questo trova riscontro in quello che diceva l'imprenditore, che per alcune situazioni magari il ministero risulta essere lentissimo e per altre veloce. La statistica è una media. Infatti c'è una media di pagamenti dove si tiene conto anche della rilevanza dell'imposto. Ringraziamo anche Davide Cervellin della Tiflo System. Oltretutto, Ale, pare che ci sia anche uno dei problemi, sia anche l'assenza di un controllo accentrato, perché c'è un po' un'anarchia nella gestione delle cose. Accentrato, per cui ognuno hai detto la parola del accentrato. Giorno. Accentrato, poi siamo con la Catalogna, le autonomie, le cose. Invece qui, non essendoci un sistema accentrato, quindi molto spesso c'è anche un problema a rendere esecutivi gli interessi di mora, e quindi questo alimenta il fatto che poi gli enti locali I nostri ascoltatori, che sono molto attenti, 800 24 00 24, come sai cara Veronica, noi abbiamo anche una rubrica e vogliamo invitare tutti gli ascoltatori che ci ascoltano dall'estero di chiamarci. Abbiamo anticipato Prince per questo, ci sarà il motivo, sarà svelato, per cui regia questo... mettetevi una mano sulla coscienza, se mettete Prince già adesso è finito tutto. No, è che noi invitiamo i nostri ascoltatori che ci ascoltano dall'estero a scriverci al 349 238 6666 e noi li chiamiamo in onda. Oggi, siccome abbiamo la coincidenza che ci siamo anche creati di avere un ascoltatore da Girona e quindi dalla Catalogna, e Claudio ci butta direttamente nel tema del giorno. Claudio, buongiorno intanto. Buondì Alessandro e Veronica. Eccoci. Buongiorno. Sei a Girona, buongiorno. Intanto perché? Cosa fai nella vita? Io mi sono trasferito qua circa 9 anni fa. Lavorando in internet in Italia potevo lavorare più o meno ovunque in Europa, allora mi sono trasferito qua con la famiglia. Ah, fantastico, con la famiglia. Per scelta mia. Come va? Cioè, perché intanto hai votato, capisci? No, hai votato no, perché non sei cittadino. No, non posso votare. Ma hai colto questa situazione in che modo? Sì, certo. Io abito in un paesino vicino a Girona di 6.000 abitanti e quindi ho tutti gli amici qua della zona e quindi niente, alle 5 del mattino siamo stati convocati, chi voleva andare ai seggi per tra virgolette difenderli o comunque per ostacolare difendere fisicamente il loco era un palazzetto, diciamo. E niente, allora siamo andati là, alle 6 sono venute le guardie locali, i Mossos di squadra. È vero che non hanno eseguito gli ordini di Madrid? Anzi, che hanno solidarizzato addirittura con i catalani. Punti, sì, in certi punti sì, comunque non si sono visti. Io posso parlare ovviamente per il mio piccolo villaggio, poi io, ovviamente ho seguito la televisione, eccetera. Però no, i Mossos di squadra non sono intervenuti in nessun caso. In qualche caso remoto hanno addirittura ostacolato. Da noi, o comunque come per legge, in qualsiasi punto, in qualsiasi seggio, i Mossos locali, anche dei piccoli villaggi, dovevano andare là, come sono venuti da noi, hanno constatato che c'era troppa gente e quindi non potevano entrare dentro il seggio e sono andati via e basta. Da noi sono rimasti un po' di ore, ma assolutamente... Non ci sono state le scene di violenza che purtroppo invece abbiamo visto a Barcellona. Ma questo io volevo capire, l'atmosfera che c'era, qual era, Claudio? C'era un'atmosfera più allegra, di gioia, oppure era un'atmosfera più cupa, da guerriglia, da guerra civile? Entrambi, man mano che si sentiva le notizie dalle altre parti della Catalogna, ci si preoccupava. Infatti nel metà pomeriggio sono arrivati un trattore per bloccare un accesso e un camion che bloccava l'altro accesso, perché nel villaggio a 5 chilometri la Guardia Civile, ecco, era la Guardia Civile e la Polizia Nazionale che interveniva. Quello è chiaro, di Madrid. Esatto. E quindi nel villaggio accanto, a 5 chilometri, la Guardia Civile è andata, solo che tutti erano già comunicati via cellulare, eccetera, quindi quando si sapeva che la Guardia Civile stava arrivando, i seggi venivano... Ma Claudio, chiaramente ci sono tanti ascoltatori su questo, dobbiamo andare in pubblicità. Dici però il tuo sguardo da lì, cioè che succederà da oggi, perché questa poi è la domanda che tutti si pongono, le scene... Sono arrivati a un punto di non ritorno. C'è da dire che, secondo me, sono stati presi in giro la popolazione sia da una parte che dall'altra, ovvero il governo centrale che ha fatto questo massacro, perché è stato un massacro, una violenza estrema. Sì. Diciamo che anche secondo me da parte delle autorità locali era un referendum che comunque non portava a nessuna parte nell'immediato, non possono dichiarare l'indipendenza autonomamente, unilaterale. Però è quello che penso che faranno. Ti posso fare una domanda poco politicamente corretta? Se tu fossi stato catalano e avessi avuto la cittadinanza, che avresti fatto? Saresti andato a votare al referendum oppure no? Io sono pro indipendenza, però non sono d'accordo al referendum unilaterale come Stato. Quindi pensi che sarebbe stato giusto far votare anche gli spagnoli, un referendum complessivo, consultivo? Diciamo che tutti dovevano votare in una maniera regolare. Sì. Ovviamente ieri hanno votato come hanno potuto, perché sono stati anche molto ostacolati, eccetera, però... E la situazione è degenerata, come abbiamo visto. Non c'era nessun tipo di controllo, ovvero c'erano i controlli, dove ho visto io, nel seggio che c'ero io, c'erano controlli, però viva Dio... grazie Claudio che ci ascolta da Girona, ci ascoltano anche dalla Germania, ci scrive ora un ascoltatore, ma su questo tema torneremo affrontando anche altre vicende di funamboli tra poco, dopo la pubblicità. I funamboli. Eccoci qui alle 9:37 minuti, anzi quasi 38. Ci scrivono, cara Veronica, ma non lo sapete? Sveglia, i ministeri pagano prima gli amici e i parenti e dopo i fornitori. Adesso non sappiamo, voglio dire, non mettiamo la mano sul fuoco su questo messaggio. Questo può darsi. No, però... come può darsi? Però quello dell'ambiente comunque non deve paga. Accadere. quello dell'ambiente paga comunque 20 giorni prima, quindi su questa cosa diventerà l'unico fiore all'occhiello, tutti a prendere per esempio quello dell'ambiente. Dai Veronica, agita le manine verso le telecamere che siamo in diretta. Ciao. Su Facebook, ve lo ricordiamo, c'è anche Leonardo Manera che è arrivato al nostro funambolo. Ciao, io mando tutto. Baci. Mando baci, commentano, dicono la mia sciarpa, ce l'hanno con la mia gola arrossata. Anche perché cominceranno a chiedersi come mai tu non sia ancora guarito. Esatto. Cagionevole, eh? Esatto. C'è Flavio che ci chiama da Modena all'800240024. Flavio, buongiorno. Buongiorno a voi. Eccoci. Io ho da dire una cosa che vorrei che sia voi, che siete una radio molto importante, e gli ascoltatori che ci ascoltano dalle varie piattaforme capissero bene. Quello che sta succedendo in Spagna, e io parlo per esperienza personale perché io sono figlio di coppia mista, mio padre è italiano e mia madre è spagnola di Madrid, ok, bene. Io ho vissuto metà della mia vita là e ovviamente il resto la sto vivendo qua. Ho 42 anni, quindi non sono un ragazzino che parlo per sentito dire. Quando abitavo in Spagna, che ero piccolino, si parlava da che i catalani volevano fare questa famosa secessione perché loro non si sentivano spagnoli, eccetera, eccetera. Beh, eccetera. Certo, allora, è un processo lungo, non è allora, che l'abbia scoperto ieri. È una cosa ieri. Che dura da è sempre, chiaro, è una chiaro. Cosa che dura da sé, non è che è un processo lungo, è una cosa che se ne parla da sempre. Sì. Allora, i paesi secessionisti possono avere i loro motivi là dove sono stati invasi da un altro paese, sono stati inglobati in una repubblica o in un regno che non gli apparteneva e politicamente sono rimasti incastrati in una situazione sgradevole. Vedi, la Transilvania era ungherese, vogliono tornare a essere ungheresi, ma la Romania non li molla. Quando la gente mi fa l'esempio dell'Inghilterra, l'Inghilterra c'è stato il regno più forte, gli inglesi. Però Flavio, non facciamo la storia dell'Europa perché sennò allora, il radio breve, non paga la Spagna, tantissimo. La Spagna erano tanti regni che si sono uniti a tavolino pacificamente, sì, per cacciare i mori. Vabbè, adesso facciamo la storia proprio. No, vabbè, no, ma te la snocciolo in due secondi. Insomma, no, cos'è ieri, che vuoi dire, esatto, Flavio? Ieri, cosa vuoi dire su questo? Qual è il tuo punto di vista? Che i catalani si vogliono staccare dalla Spagna solo ed esclusivamente per un vezzo economico. Vezzo. Beh, sono ecco. tra le regioni, quelle che si chiamano regioni in Italia, ma non lì, più produttive, e quindi e poi se hanno delle spinte autonomiste, io dico solo, ma reprimerle così? Cioè, questa è, dice, il referendum era illegale, è vero, era illegale, quindi la risposta sono il sangue, i manganelli, le dita spezzate? Però per esempio su questo, Alessandro, io non prendo posizione in generale, però ti dico che secondo me l'aspetto economico non è quello decisivo, mentre in altre situazioni io sono convinta che l'idea di avere, appunto, di pagare più tasse, di essere chiaramente la regione più ricca della Spagna, sia decisivo. Qui secondo me l'aspetto identitario prevale sul resto. C'è anche quello. Cioè, è molto ricca la Catalogna, non è questo l'aspetto centrale, e secondo me c'è anche l'aspetto di un'Europa che da un lato costituisce un magnete, dall'altro rassicura perché non c'è più il bisogno di essere uno stato compatto se poi c'è il grande contenitore Europa. Però, quindi facciamo parte dell'Europa. Guarda qui, cara Veronica, che funambolo che tiriamo fuori noi, che siamo invece il paese degli 8.000 campanili, 8.000 comuni, viviamo spesso anche in piccole realtà, in piccoli comuni, in piccole località come quella di Candela. Siamo viviamo in provincia di Foggia. Poco spesso ti correggo, perché poi tendiamo ad andare via, invece no. Ma in realtà siamo anche il paese, insomma, delle grandi frammentazioni. Salutiamo il sindaco di Candela, in provincia di Foggia, Nicola Gatta. Buongiorno, sindaco. Salve, buongiorno. Ecco, buongiorno, che si è inventata un'idea che è quella, per il secondo anno, per la verità, non è la prima volta, il bando nuovi residenti, cioè per attirare le persone, che cosa promettete lì a Candela? Beh, intanto è un modo per accendere i riflettori sul problema dello spopolamento nei piccoli comuni. Nonostante Candela in questi anni non si sia registrato un calo della popolazione, anzi addirittura è aumentata, però stiamo provando a contrastare questo fenomeno con atti concreti. Come? Prima di questa politica, sindaco, c'era stato un grosso calo abitativo? Cioè c'è tanta gente, prima che poi iniziaste a mettere in qualche modo, a trovare delle soluzioni alternative, c'era tanta gente che se ne andava? No, come le stavo dicendo, in questi anni addirittura si è registrato, non si è registrato un calo della popolazione, però... E allora perché? E allora perché? Perché purtroppo abbiamo delle scarse natività e quindi comunque è un modo per prevenire un problema. Ecco, ma come le attirate, sindaco, perché abbiamo due minuti, come le attirate sì, le persone? Abbiamo fatto intanto un bando per l'erogazione di incentivi che vanno da 800 euro a 2000 euro, in relazione al numero di altro che gli 80 euro di Renzi, eh? Del nucleo familiare. Questo però in base a Renzi reddito... vuole solo il voto, lui vuole il trasferimento. Bisogna bilanciare la cifra, ma una tantum, una tantum. Una tantum per due anni, e oltre poi a tutta una serie di incentivi, soprattutto per le giovani coppie, tipo contributi per l'acquisto dei libri di testo, trasporto scolastico gratuito, sgravi fiscali. Sì, per esempio l'asilo nido per le giovani coppie è una quota di soli 50 euro mensili, una mensa scolastica con un pasto ad 1,80 euro. Abbiamo previsto anche un bonus energia elettrica fino a 200 euro per i redditi più bassi, oltre quello statale. Quindi ma funziona, sindaco? Appunto, cioè c'è gente che... L'anno scorso abbiamo avuto 5 famiglie che si sono trasferite, quest'anno non si è ancora concluso l'anno, già stiamo avendo comunque... Però noi facciamo nostro, come dire, l'appello, se volete andare a vivere a Candela, in provincia di Foggia, magari non proprio da Bolzano, non da Torino... Guardi, io darei quasi per certo che Milan dovrebbe arrivare a breve, sindaco, glielo dico. Io punterei anche su Manera, guardi, il nostro funambolo successivo. Veramente, sei veramente una disgrazia. Euro sono disposti a... La qualità della vita altissima. Vabbè. Immagino. La qualità della vita altissima. No, stava dicendo che per 2000 euro, soprattutto Manera, sicuramente è disposto a fare Manera queste... Manera secondo me è già andato adesso. Sindaco, deve arrivare ad ore Manera. Ho visto che è lì su Wikipedia, capire un po' i locali di Candela, che cosa c'è. Dove si può intorno. Esibire, dove può andare a intrattenere Tra l'altro abbiamo anche... siamo fortunati in quanto abbiamo una posizione geografica veramente ottimale. Poco di un quarto d'ora si appoggia, un'ora da Napoli, un'ora da Bari. Però vuoi mettere con fino a 2000 euro una tantum? Un'unica domanda di rito per chiudere: come si chiamano i cittadini di Candela? Candelesi, candeline? Candelesi. Ma c'è proprio una legge salvaborghi? Cioè, lei vorrebbe una legge sui salvaborghi, chiamata così? Intanto abbiamo visto comunque la legge ultima che la stanno è stata facendo. Licenziata al Senato, che è giusta. Secondo che me dovrebbe essere un finanziamento. E che lo sforzo dopo 20 anni finalmente sono riusciti, però è una vera e propria elemosina. 100 milioni sono 100 in tutto. 100 milioni in 7 anni, quindi su 5.585 comuni, una popolazione di quasi di oltre 10 milioni di abitanti, quindi... fanno poco più di un euro a cittadino. Un'elemosina, però qua c'è un grande dibattito che non possiamo aprire adesso, c'è il traffico, c'è chi dice che in realtà è proprio il problema anche l'Italia degli 8.000 campanili che dovrebbero accorparsi, che insomma nella realtà globale avere i piccoli comuni, i piccoli borghi sono un costo, vabbè, cara Veronica, che fa parte questa. Delle contraddizioni quando poi uno dice salviamo le identità locali, teniamo le ricchezze del nostro paese, si dice tutto il contrario di qua tutto. Qua siamo le identità localissime. Comunque dai, andiamo al traffico, perché poi il nostro funambolo Leonardo Manera ha detto che vuole parlare di tappeti oggi, non ho capito. Tappeti, sì, ne vuole vendere anche un paio forse, non lo so, tra poco. Io compro, però la trattativa sarà lunga. Tra poco. Faircam Logistics, gli specialisti per la tua supply chain. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta i funamboli. Invece io sono riuscito a far pagare il comune di Roma due giorni, da non credere. Provate e chiamatemi, così vi dico come si fa ad incassare presto. Buongiorno, mi volevo complimentare con Veronica Gentili perché è molto competente, molto brava, la voce fresca e molto adatta anche alla radio. Io chiedo un piacere, sono toscana, non so se si sentirà, però vorrei che parlaste in italiano, non in romanesco. soliti, pensavo i soliti parenti convocati da Veronica Gentili. È partita però con una captatio benevolenze e poi ha messo la stoccatina. Hai capito, ma io Veronica? Vorrei capire come si fa a parlare del mio romanesco quando ci siete voi due che non parlate italiano. Ma poi la signora parlava toscano, quindi con l'accento toscano. Per accento, cui... per esempio, in che lingua è? Accento, io dico accento. Quindi io parlerò accento. Anche romanesco, ma gli accenti sono questi. Io dico prova contraria. Mi dispiace tanto. Dice... So che al nord uno è convinto che gli accenti siano bicicletta, no. Ma non è così. Per esempio, si dice perché con la E chiusa, perché oggi stai si dice a perché, casa, perché? Casa, casa, cosa, così. Perché, perché non oggi... hai preso la bicicletta? E invece no. Bisogna dire perché hai preso la bicicletta con la E chiusa. Purtroppo gli accenti sono così. Lo so, va bene. Inizia così con un dibattito soave, finirà a coltellate. Comunque la signora mi è piaciuta. No, mi piace che si parli del mio romanesco e al nord uno può parlare con tutti gli accenti che vuole. Io saluto bene, la signora. Stesso, si può parlare come uno crede, non c'è problema. Saluto no? La signora, l'abbraccio tantissimo, le voglio tanto bene. Hai visto come sei stizzita, Veronica? Sì, questa cosa devo dire che mi irrita particolarmente perché ci vedo sempre un che di nordista in questa leggici, cosa. L'accento del nord è l'italiano. Leggici prima di venire a due pagine di qualcosa. No, scherziamo. Ma, no. Sì, stizzita, ma con che coraggio parli proprio va tu? Bene. Leonardo! Sciocchina. Oh, cari miei, oggi io sono un po' nervoso perché ho bevuto il caffè anche a tu. Casa. Porca ho bevuto miseria. Il caffè a casa, poi fuori da casa io prendo sempre caffè al bar. Appena poi uscito dal bar ho trovato un amico che me ne ha offerto un altro, quindi tre, e qui alla radio un altro. Quattro caffè subito appena alzato. Però ieri invece è stata una bella giornata per me perché ho comprato una scopa elettrica. Questo è stato il momento culminante del mio fine settimana, e ho pulito i tappeti. Io sono appassionato di tappeti, ma oggi, cara Alessandra e Alessandra e Veronico, oggi è giorno dei nonni, lo sapete? Ah, certo, come no? Sì, avevo letto. La festa dei nonni. E io leggendo Panorama ho appreso invece che gli anziani non esistono più. In copertina di Panorama c'è un anziano che sta facendo un lancio col paracadute, perché l'anziano, dice Panorama, non si sente più anziano. A 65, 70, anche 80 anni non si sente più anziano. Panorama parla di una nuova genia sociale capace di contrastare gli anni. Viaggia, fa sesso, balla, cura il corpo, ricorre al ritocchino e soprattutto spende e se ne frega dei giovani. Io non li chiamo neanche più anziani, perché nella parola anziano c'è un po' di tenerezza per l'età avanzata, per una persona che comunque è un po' più debole di prima. Invece l'anziano non esiste più, perché non è più debole, è più forte dei giovani, anche se vecchio, anzi non è più neanche vecchio, è il super vecchio, cioè una specie di vecchio super che si gode la vita, e io lo invidio un casino. Perché da noi ormai, invece, in tutto l'Occidente, nessuno vuole più invecchiare. La vecchiaia si nasconde, si chiama terza età. Ma ho sentito dire anche seconda abbondante, tardo adolescenza, maturità estrema, giovinezza 3.0. Il vecchio è diventato super vecchio! Un vecchio con la vita da giovane. Da noi, le donne, per esempio, ma non solo le donne, pur di non invecchiare, si tendono, si tirano, si rifanno quelle persone sulla carta d'identità, la voce, segni particolari, hanno un allegato. Poi, le donne anche in tarda età si riempiono il seno di silicone. Con donne così siliconate è meglio far l'amore col preservativo, perché c'è più affinità di materia. Ma anche l'amore è meglio farlo da vecchi, perché quando lo fai da ragazzo hai un'ansia da prestazione bestiali. I battiti del cuore arrivano a 150 al minuto, la pressione sarà 250, le narici si dilatano, la bocca si contorce, le orecchie si scaldano. Invece nell'anziano, nel vecchio, non c'è ansia da prestazione, al massimo c'è lo stupore per la prestazione. Ma anche la prestazione sessuale da vecchio è meglio di quando eri giovane. In Italia nel 2016 sono state vendute 34 milioni di compresse di Viagra. Praticamente ormai le case di riposo, a quanto pare, non sono più case di riposo, sono diventate case di tolleranza. La vita dell'anziano, del super vecchio, è migliore anche per le vacanze, perché mentre gli altri sono costretti ad andare in vacanze in agosto a fare la coda a prezzi alti, l'anziano, che è pensionato, grandissimo privilegio, può scegliere il periodo migliore per andare in vacanze, poi magari in agosto resta in città a godersi il fresco dei centri commerciali e provarci con le cassiere. Tutto questo ovviamente se l'anziano ha abbastanza soldi per potersi permettere una vita così, se non gli hanno rubato la pensione o se non ha perso i risparmi a causa di qualche banca. Io che adesso ho 50 anni, penso che a 70 anni mi piacerebbe anche un po' riposare, magari un viaggio, sì, ma non chissà dove, so, da Milano a Loano, da Milano ai Lidi Ferrarese, insomma, da vecchio mi piacerebbe essere libero e stare tranquillo e non essere costretto a fare quello che per tutta la vita i mass media vi hanno detto di fare per essere un uomo attivo, in forma, performante. Chissà, forse ho sbagliato io. Chi lo sa? il nostro Leonardo Manera, eccolo qua, annunciato da un'altra delle nostre sigle orribili. Disannunciato. Vabbè, ce lo daranno un premio? Non lo so, secondo me sì, possiamo puntare a quello, le sigle più nel Guinness dei primati, il programma con più orrenda. Sigle orribili tutte insieme, tutti questi super vecchi che ci sono in giro. Super vecchio. Era quella di Cannavacciuolo questa. C'è Francesco da Siracusa. Buongiorno Francesco. È caduto Francesco da Siracusa di fronte a questo orribile disannuncio di sigla e ci ha abbandonato, caro Francesco, super vecchio, insieme a Cannavacciuolo. No, va bene, va bene. Cara Veronica, nella seconda parte dei Funamboli, sì, avremo intanto una signora a cui sono molto legato, nel senso che fa un lavoro straordinario. È la direttrice e cofondatrice di Make a Wish. Make a Wish, cioè realizza un sogno. Fa un'iniziativa veramente. Fanno iniziative veramente belle. E poi sai che parliamo di paghette. Paghette, ti piace? Non paghetta, paghette. Vabbè, sì, io paghette. La prendo ancora da mio padre. Io la paghetta. E quanto prendi di paghetta? 50 euro a settimana me li dà così. A settimana sono 200 euro al mese. A 50 euro a settimana? Ragazzi, devo ritrattare con papà io. A 50 anni, le paghette. Ci sono le sentenze su dare o no la paghetta ai figli di 30, 35, 40, 50 anni. Ti vedo brutto, Ale, dovrei pagare paghette proprio molto a lungo ancora. Tra poco, state con noi. Quando sarai vecchietto col bastone. Sì. Sei un amante degli scherzi? Ti piace farne e riceverne? Sei un tipo veramente spassoso? Vorresti che fosse sempre il primo a aprire? Allora acquista con consapevolezza l'olio extravergine di oliva Carnevale. L'olio extravergine per scherzo, inconfondibile per il suo colore marrone, per il suo gusto indecifrabile, per la sua provenienza incerta. Olio extravergine di oliva Carnevale, inadatto per i fritti, inadatto per condire a crudo, efficacissimo per cancellare tatuaggi. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. I funamboli. I pazienti si aprono con me, Karen. Mi confidano i sogni, le fantasie. E se tocchi il tasto giusto, si illuminano, sia pure per un momento. Dimenticano completamente la malattia. Neanche sentono più dolore. Allora, questo era un brano del film Patch Adams con straordinario Robin Williams, eh? Sì. Alle 10:07 minuti. È arrivato un messaggio, attenzione. Attenzione, attenzione, un doppio messaggio. Caro Manera, puoi aiutare Alessandro con Veronica? È cotto, non dico cotto, stracotto. Confermo questa cosa. Questo è il tuo aiuto. Confermo, grazie. E quindi ho pensato di portare qualche donna compiacente qui in studio, così aiuterò per Alessandro. Per aiutarlo a dimenticarmi. Esatto, da domani comincerò un paio di mie amiche, anche come abbigliamento molto insomma aggressivo, come piace ad Alessandro. E quindi mi aiuterà così, mi aiuterà. Sì. Questo gusto un po' fetish sta domani. Sull'odio. Vabbè. Ecco, senti, impara, no, si è perso un bel cavaliere. Allora signori, alle 10:08 minuti alla seconda ora di Funamboli, voi dovete chiamarci se volete all'800 24 00 24, scriverci, noi abbiamo dato la mail da Leonardo che conosce molto bene la mail. funamboli@radio24.it. Ma vogliamo anche ridire il numero degli SMS? È pagatissimo per dare la mail, è pagatissimo per questo. Vai, vero, gli SMS. 349-238-6666. Si accettano anche proposte per far disinnamorare Alessandro. Donne. Invece della rotina è arrivato Alessandro Milan. Va chi bene. Volesse farsi sotto è bionda, è bella, è sciocca. Alle 10:09 minuti siamo qui con i Funamboli ed è il momento di invitare una straordinaria persona che è la funambola di oggi, la funambola del giorno. Nome: Sune. Cognome: Frontani. Età: 50 anni. Fondatrice insieme al marito di Make a Wish, una onlus che si impegna a realizzare i desideri dei bambini afflitti da gravi malattie. Ebbene sì, Sune Frontani, buongiorno e grazie di essere qui. Buongiorno Alessandro, buongiorno. Allora, Make a Wish Italia, perché ricordiamo che è, voglio dire, un qualcosa di internazionale che c'è anche in Italia da quando? 12 anni, 13 anni? Da 12 anni, dal 2004, sì. È bellissimo perché realizzare i sogni dei bambini, stiamo parlando di bambini che sono malati, molti dei quali purtroppo, è inutile negarlo, hanno, come dire, i sogni come ultima speranza di legame alla vita, o no, Sune? Direi di no. No. Direi di no perché per fortuna al giorno d'oggi tante malattie, anche gravi, hanno comunque speranza di guarigione. Sicuro. Questa è una cosa bellissima, noi l'abbiamo sperimentato in questi 12 anni. Quando abbiamo iniziato c'era una situazione, per esempio con le leucemie dei bambini, che la speranza di guarigione era molto più bassa. Al giorno d'oggi comunque l'80% dei bambini affetti da forme di leucemia guarisce, per cui noi abbiamo sicuramente sperimentato in questi 12 anni che tanti dei nostri bambini che hanno espresso i loro desideri del cuore un po' di anni fa si sono salvati. Ce l'hanno fatto e sono andati avanti, ce l'hanno fatto, e qualcuno anche è diventato il nostro volontario o testimonial, per cui è sicuramente un messaggio molto molto positivo che dobbiamo dare. Questo poi sì. Chiaramente abbiamo anche a che fare con bambini che sono affetti da malattie per cui effettivamente non, la ricerca non è ancora andata avanti e le cure non ci sono ancora sufficienti. Per cui anche per questi bambini però noi facciamo la differenza. Sì. Anche perché i sogni sono potete immaginarli, dei più disparati. C'è chi vuole incontrare Cristiano Ronaldo, c'è chi vuole andare sul Titanic, c'è chi... Ma come funziona, Sone? Cioè, per esprimere il desiderio, qual è la dinamica? Come parte il procedimento? Allora, i bambini possono essere bambini e ragazzi, perché noi abbiamo poi anche i ragazzi fino ai 18 anni, possono segnalarsi da soli, ci possono scrivere su Facebook, ci possono scrivere una mail, un SMS, ma possono essere segnalati anche dai loro medici, dai loro assistenti sociali, dai genitori stessi. E se sono eleggibili per noi, per la nostra associazione, perché come abbiamo detto prima ci occupiamo di bambini affetti con determinate malattie gravi, devono essere comunque bambini che sono sottoposti a terapie invasive molto molto dolorose, spesso volentieri, e noi ci occupiamo di questi bambini e poi vengono segnalati e poi andiamo a intervistarli, andiamo a scoprire con i nostri volontari qual è il loro desiderio del cuore e deve essere molto motivato, i nostri volontari hanno molta esperienza per capire se effettivamente il desiderio è il desiderio del bambino, cioè se è qualcosa che il bimbo vuole davvero. Davvero, perché altrimenti la magia nostra non funziona. Noi dobbiamo realizzare questo desiderio del cuore del bambino. Stavo chiedendo, qual è il desiderio più bizzarro, più bello anche che vi è capitato di realizzare in questi anni? Ma tantissimi, abbiamo avuto tantissimi desideri. Adesso forse recentemente un desiderio che ci ha colpito tantissimo, di una bimba della Puglia che era in cura al Bambin Gesù, per fortuna sta bene, ha una leucemia, ma sta bene, è stabile, che lei ha espresso il desiderio di voler volare come una farfalla. Per cui per noi è stata una sfida mica da poco, perché comunque la bimba, subito abbiamo pensato a un parapendio insieme ad un istruttore travestita da farfalla, cose in grandi, al Cirque du Soleil, a tutto quanto. Alla fine però la mamma ci ha detto che aveva paura di andare anche sul bruco, per cui dovevamo inventarci qualcosa che poteva essere compatibile con la sua età, con quello. Quanti che anni aveva la bimba? 5 anni. 5 anni, piccolina, per cui noi abbiamo creato tutto una scenografia in un parco d'avventura a Roma, dove lei era poi appesa a una carrucola travestita da farfalla, e abbiamo creato tutto l'ambiente con i fiorellini sotto il prato verde, per cui lei volava tutto il giorno su questa carrucola avanti e indietro. Una cosa, ha espresso il desiderio e l'ha realizzato. Alla fine era contenta la bambina, ma anche detto vabbè, però tutto il giorno a volare come una farfalla è un desiderio molto semplice, però è stato molto molto molto bello. Tra l'altro Make a Wish, appunto, essendo a livello internazionale, paese che vai, desideri che trovi. Una volta Sune Frontani mi raccontava che in India un bambino ha chiesto un paio di scarpe come sogno, certo. O un'anguria, è vero? Un'anguria. Sì, è verissimo, è verissimo. Un'anguria? Un'anguria. Ha chiesto sì, di assaggiare un'anguria. È chiaro che, che in India i bambini hanno desideri molto, molto diversi dai, certo. bambini che sono qui. Per cui effettivamente Make-A-Wish ha affiliata anche nel terzo mondo, anche in Sud America, i desideri sono molto molto più semplici. Qualcuno ha chiesto anche un paio di scarpe. Ma invece la cosa più complessa che vi è capitata a tua memoria, cioè proprio la più difficile che uno dice oddio adesso come faccio? Adesso come faccio forse è quel desiderio che abbiamo realizzato un po' di anni fa, a cui faceva cenno già Alessandro prima, del bambino che voleva andare sul relitto del Titanic, perché quando effettivamente abbiamo sentito... E come avete fatto? Abbiamo fatto una cosa molto molto carina qua in mare davanti a Arenzano. Il bambino non poteva assolutamente per motivi medici andare sott'acqua, certo. però davanti a Arenzano qui a Genova c'è un relitto, il relitto della Haven, questa pietroliera che tutti conoscete, e abbiamo portato dei sommozzatori vicino a questo relitto, e il bambino era chiaramente sulla barca dei sommozzatori e era collegato con un computer e vedeva quello che vedeva e riusciva a dare istruzione al sommozzatore che andava sotto, a questo subacqueo che andava sotto, a cercare un modellino del Titanic dentro il relitto della Haven, un modellino bellissimo. Molto raro. E lui l'ha guidato e gli ha potuto parlare e gli è sembrato di essere lui stesso sott'acqua, sì, perché lui proprio, il medico non autorizzava assolutamente di andare sott'acqua per motivi di salute, per cui questo è stato un desiderio molto interessante. Sì, tra l'altro vogliamo ricordare, diamo gli estremi di Make-A-Wish Italia, c'è anche poi da raccontare su Sune Frontani che tutta questa vicenda nasce da una perdita in famiglia, no? Che avete avuto di Carlotta, una delle vostre bambine che purtroppo non ce l'ha fatta anni fa e vi ha spinto a fare questa iniziativa. Sì, Carlotta è stata mia figlia più grande, oggi avrebbe avuto 24 anni, lei è mancata all'età di 10 anni a causa di una grave malattia genetica, di quelle malattie che purtroppo non hanno speranza di guarire. Lei è mancata qui all'ospedale Gaslini a Genova nel 2002. Noi, mio marito e io, abbiamo deciso dopo la sua morte di voler fare qualcosa che arricchisse veramente la vita e che facesse la differenza, la differenza nella vita di questi bambini gravemente malati, sottoposto a lunghi periodi di isolamento, a cure pesanti. Anche momenti di grande e profonda depressione, per cui noi abbiamo deciso di voler fare qualcosa che portasse gioia, che portasse speranza, che portasse energie nuove per poter affrontare meglio la battaglia. Infatti mi chiedevo una cosa, Sune, forse proprio anche dal punto di vista fisico per la guarigione avere dei momenti di felicità, ottimismo, positività aiuta, può essere un coadiuvante. Aiuta tantissimo, è scientificamente provato che i benefici fisici ed emotivi soprattutto aumentano la probabilità di guarigione dei bambini. Anche la realizzazione dei desideri è un punto di partenza per sentirsi di nuovo normali. I nostri bambini sono, quando vengono ricoverati, all'improvviso perdono un po' il diritto di vivere la loro infanzia, per cui la realizzazione di un sogno e la speranza di poterlo realizzare gli regala proprio diritto di essere bambino, di essere un bambino normale. Sune Frontani, sì. Vogliamo ricordare Make-A-Wish Italia, c'è un sito, c'è qualcosa da ricordare per contattarvi? Assolutamente. Cioè, il nostro sogno qui in Make-A-Wish Italia è quello di poter realizzare i sogni di tutti i bambini gravemente malati in Italia. Noi oggi ne realizziamo 250 desideri all'anno, ma non vi nascondo che il divario fra quelli che realizziamo e quelli che potremmo realizzare è ancora molto molto grande, per cui la nostra speranza se avessimo le risorse sufficienti di poterlo fare. E com'è? Www? Le risorse si va sul www.makeawish.it, si va sulla pagina come aiutarci e ci sono, e ci si sono può donare. Tutti i modi. Si può donare, si può diventare volontari, si possono contribuire in diversi modi all'attività. C'è tutto lì, www.makeawish.it. Dobbiamo andare al traffico. Che bella storia, grazie Sune, davvero. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta I Funamboli. Allora, sì, che bella funambola, caro Leonardo era qua anche lui ad ascoltare, Sune Frontani. Beh, io mi è capitato di fare alcuni spettacoli anche, no? Proprio tipo Patch Adams negli ospedali dove ci sono tanti bambini, devo dire che vedere come cambiano i bambini anche semplicemente assistendo allo spettacolo, io facevo il clown per i bambini, è veramente un'esperienza da fare, insomma. A volte si può veramente, credo, essere utili anche con queste, io parlo per quanto riguarda il mio lavoro, con queste piccole cose, insomma, andare in ospedale per bambini dove ci sono questi bambini che soffrono e fare qualcosa per loro, farli divertire, sentire una risata di un bambino che è in quelle condizioni, oltre che credo utile per loro, è anche gratificante per chi lo fa. No, ma è vero, e poi una delle cose più brutte, se vuoi, è che la malattia è come se silenziasse l'infanzia, cioè come un bimbo malato non è più un bimbo, perché la malattia si antepone a tutto. Invece riportarli ad essere bimbi e poter avere la loro età con i desideri di quell'età, secondo me è una delle cose più utili che si possono fare. Alle 10:22 minuti ci sono ancora tanti ascoltatori ovviamente che ci chiamano sul tema che è un po' la notizia di tutto il giorno e che ci accompagnerà nei prossimi giorni. È Valerio da Bologna, vale a dire la vicenda in Spagna, in Catalogna. Valerio, voleva ancora chiamarci su questo? Eccoci. Sono qua, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Vorrei semplicemente fare una domanda. Siccome sento dalla vostra trasmissione, così come dalle emittenti televisive, una sorta di appoggio esterno alla volontà catalana di esprimere il proprio parere all'interno di una situazione dove la Corte Costituzionale ha definito incostituzionale il referendum, la mia domanda un po' provocatoria sarebbe questa: voi sareste altrettanto disponibili a sostenere un eventuale referendum del nord Italia che si volesse distaccare dal sud Italia? Perché poi le differenze all'interno di una situazione di questo genere, se è vero che la Catalogna è la parte più ricca di Spagna, è vero che il nord Italia è la parte più ricca d'Italia. No, ma è chiaro, Valerio, io rispondo per me, io non tifo, io guardi, l'unica cosa, mio malgrado, che tifo è il Milan, conveniva non tifare proprio oggi. No, ma sì, mio malgrado, cioè quella cosa proprio, anzi, che non sopporto è l'idea di avere una posizione netta su tutto. Io non lo so, non sono spagnolo, non sono catalano, quindi si figuri se so e mi addentro sulle questioni di indipendentismo catalano. Anche perché per una volta non ci siamo pronunciati, nemmeno io, mi sembra di aver detto alcunché in questo senso. Sicuramente ci sono delle spinte indipendentiste ovunque, anche appunto in Veneto, anche in Lombardia, ma guardi che anche in Sicilia, anche in Sardegna. Però mi ha stupito, nell'assenza totale dell'Europa, che la risposta del governo centrale di Madrid sia stata così dura, cioè con il sangue. Si è visto il sangue. Ecco, io mi chiedo se si dovesse arrivare a così tanto. E probabilmente la situazione è peggiorata, nel senso. Sicuramente, cioè dopo che ci sono quelle immagini adesso non è che si può tornare più indietro. È stato un sistema infallibile per passare dalla parte del torto completamente, perché sappiamo che invece nell'opinione pubblica Madrid è stata anche molto difesa, perché si temono queste spinte autonomiste, certo, e invece certo, la reazione, il modo in cui è stato gestito ha fatto accapponare la pelle a tutti quanti e la situazione si è complicata. Però uno non dà un giudizio a priori, nessuno di noi è catalano, ne ha vissuto sulla sua pelle il problema dell'autonomia, almeno non per quanto mi riguarda, Italia, per cui esprimersi è molto complicato. In Italia si semplifica tutto, quindi adesso entrerò al bar e mi diranno: ma lei sta con la Catalogna o con Madrid? E tu devi dire in due secondi se stai con la Catalogna o con Madrid, soprattutto affinché poi possano insultarti tutti gli altri che pensano l'opposto e dirti: lo sapevo dall'inizio che tu stavi con la Catalogna. Se non ti incasellano, la gente va in crisi. Si è capito che Veronica sta con la Catalogna, sicuramente, oh. Tendenzialmente con vetro. Io per esempio tifavo Sinistros, subito Catalogna. Tifavo certamente Real Madrid nella finale con la Juve in Coppa dei Campioni, questo sì, e quindi lì ero molto per Madrid e ho vinto e sono contento. Quindi hai preso posizione, dai, adesso esatto. Ti arriveranno tutti i messaggi sul fatto che tu ce l'hai con la Catalogna, allora sei contro la Catalogna, dillo. Non lo so, è maniera tu li vuoi che soggiogati. Questo... Allora io ti dirò che io la penso come la pensavano i radicali negli anni 70. Cioè, loro hanno sempre fatto manifestazioni non violente, si facevano portare via dai carabinieri, dalla polizia, ricordo Pannella che si faceva trascinare per strada via dai carabinieri, hanno sempre cercato di cambiare le regole stando all'interno comunque del sistema e alcune vittorie le hanno ottenute, ecco, io da vecchio votante radicale negli anni di Pannella. Una cosa la possiamo dire però, che c'è stato un silenzio abbastanza colpevole da parte del re, che qualora avesse parlato, se realmente rimanendo nei margini della legalità si vuole avviare un processo di revisione costituzionale che renda possibile questo referendum, renda possibile ripensare al federalismo, tutto questo può essere avviato dal re Felipe, che invece non ha detto una parola. Alle 10:26 minuti dobbiamo parlare di un altro argomento che torna prepotentemente sui giornali, era tornato con una vicenda di qualche tempo fa, guardate che non sto dicendo paghetta ma adesso è della dico stessa paghetta. Gravità della Catalogna, vedi? E cioè la vicenda delle paghette di coloro che sono figli bamboccioni e pretendono di essere mantenuti a vita dai genitori. Questa stai ascoltando verità. Papà? Questa è la verità. Tra l'altro vogliamo salutare un avvocato che è l'avvocato dello studio Manganati, Michela Manganati. Buongiorno e grazie di essere con noi, avvocato. Buongiorno. Manganati. Buongiorno, l'ultima vicenda l'abbiamo scovata sul Giorno, ma lei ne conosce altre ed è contraria a una vicenda che invece era diventata preponderante sulla cronaca qualche giorno fa, e cioè una 35enne alla quale la Cassazione ha dato torto. Basta, il papà deve smettere di pagare, perché questa 35enne può anche iniziare a 35 anni a guardare la vita con i propri occhi e affrontarla con le proprie gambe, o no? Ma perché siete esagerati? È piccola. È un fascista. È piccola a 35 avvocato, anni. Avvocato, che dici? Perché? Allora, dunque, io sono prepotentemente favorevole a questa sentenza, perché ritengo che i ragazzi vadano un po' responsabilizzati. Ragazzi, 35 anni è una donna. È una... 35 anni non è, sì, non è una ragazza, è una donna grande, deve essere in grado di camminare con le proprie gambe, spiccare il volo, come ho scritto io all'epoca in un articolo che pubblicai su una rivista giuridica online. Ritengo molto importante questo, anche se siamo in una società, lo sappiamo tutti, in cui la disoccupazione è sempre più forte. Però è importante che i ragazzi si diano da fare, no? Trovino i propri mezzi di sostentamento e si impegnino a procacciarsi una ma in questo caso la Cassazione perché ha detto basta? Basta perché il giudice, come dice la Cassazione afferma e consolida un principio che già la giurisprudenza precedente aveva affermato già nel 2009, nel 2010, ma ultimamente anche molti tribunali, lo stesso tribunale di Cremona sta seguendo un po' questa linea, perché laddove un ragazzo, come si può chiamare, anche una donna, non si impegni fattivamente nella ricerca di un lavoro, i genitori, comunque in questo caso era il padre, può sostenere il mantenimento al figlio. Avvocato, l'obbligo del mantenimento esiste soltanto se il figlio incolpevolmente non riesce a raggiungere l'indipendenza economica, è così, certo, no? Certo, laddove non si impegni nella ricerca di un proprio lavoro. Veronica, o qualora non riesca a trovarlo. Se non ti impegni a cercare un tuo lavoro, è inutile che dici poi... da domani mattina. No, tra l'altro penso no, che... è vero, la disoccupazione, ma è ovvio che nel corso del procedimento il giudice ha l'obbligo di provare anche il figlio deve provare di aver fatto di tutto, cioè per poter trovare un lavoro e nonostante ciò non è riuscito a trovarlo. E tra l'altro nella media penso che i genitori siano sempre disposti a aiutare il figlio se ha difficoltà. Sì. Non, ma normalmente comunque l'obbligo al mantenimento sussiste, è un principio sancito dal nostro codice civile. Tra l'altro non è così automatica la sospensione al mantenimento. bisogna trovare comunque che il figlio ha fatto di tutto per trovare un lavoro, ma che nonostante questo non sia riuscito a trovarlo. Avvocato, ma secondo lei nella casistica succede più spesso che ci sia una reale difficoltà legata al contesto sociale in cui ci troviamo, al momento storico, oppure marciarci, come si dice, nel senso che ci sono tutta una serie di situazioni anche di pigrizia? Molti ci marciano, altri ovviamente incontrano questa reale difficoltà, cioè dipende poi da caso a caso, va analizzata la fattispecie nel concreto. Allora, insieme all'avvocato, noi dobbiamo andare a sentire le informazioni sulla borsa. Insieme all'avvocato Michela Manganati salutiamo, e lo recuperiamo tra un attimo dopo le informazioni sulla borsa, Gino Cecchini. Buongiorno signor Gino. Buongiorno. Che qualche giorno fa è finito su tutte le prime pagine dei giornali, perché lui invece è stato condannato dal giudice a mantenere la figlia di 26 anni che è fuori corso all'università, e che il signor Cecchini dice non vuole lavorare, non dà gli esami. Gino, sua figlia l'ha resa una star, lo capisce, esatto. Le deve essere molto grato. Su queste cose non ci sono vincitori. Esatto. Allora, andiamo non a sentire. Non è come la Catalogna, che forse qualcuno qualcuno vince, qualcuno perde. Il forse suo neanche lì vedremo. Il suo portafogli sicuramente un po' perde. Andiamo però a sentire la borsa e rientriamo da lei. I funamboli. Eccoci qui alle 10:37 minuti, siamo rientrati i funamboli con il signor Gino Cecchini. L'abbiamo lasciato lì, signor Cecchini, eccoci. Buongiorno. Allora, intanto come vanno i rapporti con sua figlia? Si sono un po' normalizzati dopo queste interviste oppure no? Gli unici contatti sono attraverso l'avvocato, sul suo avvocato. Quindi la situazione è tesa. Prego? È una situazione tesa, dico, ci sono proprio problemi anche personali di una certa importanza. Non saprei dire, io non ho fatto causa a mia figlia. Ma è lei che non vuole parlare con sua figlia o è sua figlia che non vuole parlare con lei? Io penso che sia mia figlia che non abbia piacere di parlare con me se si rivolge all'avvocato per qualsiasi cosa. Questo sì. Però lei è diventato famoso, la sua storia, perché appunto è stato condannato dal giudice a mantenere la figlia 26enne fuori corso. Ha sentito che non sempre va così, nel caso ogni sentenza poi è diversa, ogni caso è diverso. In questo caso la 35enne donna, la Cassazione, certo, dice deve pagare tutto. Quanto deve versare a sua figlia, Gino? Ma guardi, io le dico una cosa, il discorso del mantenimento non è il problema del mantenimento, il problema che io ho sollevato è che mia figlia è al settimo anno fuori corso, di un corso triennale, senza aver fatto alcun esame del primo anno, e quello che mi hanno imposto di prenderle anche una stanza a Gorizia, per cui devo pagare una stanza per una persona che non deve frequentare, e quindi ciò, anche i costi della stanza, di un nucleo separato, ma non viene intaccato il principio del mantenimento, nel senso che io non ho nessun problema a mantenere mia figlia in casa mia se non trova lavoro, e quello che io non desidero è che se non va avanti con l'università che trovi un'alternativa e si metta a lavorare. È inutile che mi condannino a pagare anche l'università, perché sono 2000 euro all'anno di università, di un nucleo separato, della stanza fuori sede. Credo non c'è nessun motivo, perché una persona fuori corso al settimo anno non ha bisogno di stare presso l'università. Ma se sua figlia è al settimo anno fuori corso, forse ha scelto una materia che non apprezza, che non le piace, perché vuole continuare a fare? Non lo sa, perché parla solo con gli avvocati. Perché vuole continuare a fare quel corso di laurea? Ma non ho idea. Il discorso è che a un certo punto anche uno dovrebbe anche vedere che se non si va avanti si mette anche a provare a lavorare, perché quello che noi abbiamo chiesto con il mio avvocato quando c'è stata la causa nei miei confronti è che o si facesse un percorso palese, abbiamo chiesto 4 esami quest'anno, 4 esami l'anno prossimo, cioè praticamente un benchmark per pagare, ma sì, fare l'esame dell'università, oppure iniziare un percorso lavorativo, anche perché poi se uno non ha un titolo, se non ha esperienza lavorativa, gli anni vanno avanti e poi... Ma sua figlia non ha mai lavorato fino adesso? Mentre era fuori corso non ha fatto qualche lavoro saltuario? No. Io le ho proposto... Niente. Le ho proposto anche di far prendere su qualche lavoretto che l'aiutavo, eventualmente di fare un corso. Parla tra l'altro inglese perfettamente, parla spagnolo. Gli ho detto, prendi, fai qualcosa. Noi siamo in una zona turistica, per cui gli ho detto... inizia a fare qualcosa, fai l'università part time, e il momento in cui ho iniziato un po' a restringere le cose, da lì è partita la lettera. Non è che Gorizia è una città con troppi divertimenti, quindi sua figlia È il nostro Leonardo Manera che vuole anche girare il coltello nella piaga. No, magari caro Gorizia, signor Cecchini, ci sono discoteche, divertimenti. Ma allora può dirgli quello che le passa per la testa. Puoi insultarlo come vuole, anzi, se la vuole prendere con lui invece che con sua figlia, se vuole farsi prestare dei soldi. No, ma io dico, in realtà ogni storia è diversa, ma è veramente una cosa abbastanza incredibile. Cioè, secondo me, io volevo capire la motivazione della sentenza, qual è? Cioè, hanno detto sì, lei deve pagare perché? Allora, io sono divorziato, io dal 2007 vivo con le mie figlie, perché la madre si è evaporata nel 2007 e tra l'altro c'era anche una denuncia mia di abbandono di tetto coniugale con minori. E, comunque, al di là di quello, io dal 2007 sono con le due mie figlie. E la sentenza ha sostanzialmente detto che io devo fino al 2019 pagare una città, pagare, se lei desidera, una stanza fuori sede, provvedere al mantenimento ordinario e straordinario, e su questo non ho obiezioni, sono l'unico che paga, il papà sono io che pago, quindi l'ho mantenuto sempre, lo faccio più che volentieri, Dio buono, è mia figlia. In più, poi dopo, Pordenone aveva chiesto un assegno di spese personalissime, quindi pagato tutto, pagato l'università, pagato i libri, le pagato vacanze, ecco. 500 euro al mese di spese personalissime, quindi un mezzo stipendio per spese personalissime davanti a nessun risultato scolastico. Noi abbiamo chiesto di legare il pagamento a dei risultati, anche questo gli ha dato un calcio e hanno detto no. E poi io sono andato in appello a Trieste, e a Trieste ha semplicemente ridotto le spese, cioè non hanno guardato assolutamente al discorso di legare la sentenza a una performance, no? O a a dei risultati ottenuti. Si può dire piccolo risultato. Si può dire che il diritto di famiglia in Italia andrebbe veramente riformato, che in certe cose, mi scusi il termine, fa schifo. Cioè, a volte si è veramente vessati in modo veramente inconcepibile. Ecco. Ma è inconcepibile la cosa, perché adesso mia figlia continua può fare o può non fare, tanto non cambia niente, fino al 2019 tranquilla. No, ma è chiaro, in genere io non riesco a capire, però, perché come dicevamo prima con l'avvocato, no, si parlava di obbligo di mantenimento soltanto quando il figlio incolpevolmente ha fatica a mantenersi, non riesce a portare a casa i soldi che gli servono per sostenersi. In questo caso, incolpevolmente, dove sta? Probabilmente lo chiede a me o l'avvocatessa? No, lo chiedo a lei anche, nel senso che oggettivamente sua figlia avrebbe tutti i requisiti per poter lavorare o potersi procacciare una fonte di reddito, immagino, o perlomeno dovrebbe dimostrare che non riesce a farlo. Assolutamente sì, anche perché io ho proposto, ma anche questo è stato proposto ai giudici, che, e l'avevo proposto a mia figlia anche prima, che siccome io sono metà tedesco, che andasse in Germania dai miei zii, facesse il Goethe per 3 mesi, il Goethe Institute, e tornasse con un titolo di tedesco, l'inglese lo parla, lo spagnolo lo parla, noi abitiamo vicino alle zone turistiche, e avviarla con un corso di formazione di quelli finanziati dall'Unione Europea, a un corso per turismo. Ma mi sembra che signor Cecchini, mi sembra che lei antepone delle questioni di estremo buonsenso alla burocratica legge italiana. Lei è un matto e andrebbe internato, secondo me. Esatto, ovviamente esatto. Sono molto sarcastico e ironico in questa considerazione. Cioè, lei pretende di fare dei ragionamenti sul merito, sulle capacità, sul valorizzare le qualità che sua figlia ha, mi sembra di aver capito, esatto, di fronte esatto a un'applicazione cieca e codice alla mano da parte di, per carità. Ma infatti siamo rimasti, io anche l'avvocato Silvestri che mi ha difeso da questi attacchi, siamo rimasti sconcertati davanti alla mancanza di un benchmark anche nel percorso che hanno chiesto di 2 anni, di proseguire, perché adesso siamo al 7° anno fuori di un corso di 3 anni. Ma rimarrà 15 anni fuori corso. Perché ma secondo lei sua figlia non vuole fare niente? Cioè, lei adesso non ci parla più, però prima ci parlava. Cioè, secondo lei sua figlia che vuole fare da grande? Ma non ho idea, guardi, però le so dire una cosa, che tutto questo è nato quando io nel 2015 avevo detto a mia figlia dai, diamoci la mossa, 2015-2016 cerca di finire velocemente, 2016 aveva fatto niente, fine 2016, ottobre, mi presenta la solita iscrizione tassa universitaria, io mi sono rifiutato di pagare la tassa universitaria al sesto anno. È lì che è nato, dopo, è nato questo. E 15 giorni dopo mi è arrivata la lettera dell'avvocato. È chiaro. Signor Cecchini, noi intanto la ringraziamo, ci ha raccontato uno spaccato che riguarda lui, ma riguarda purtroppo sì, non tantissimi, i rapporti familiari spesso sono un po' più sereni, fortunatamente, però ci sono questi casi. Dobbiamo andare alle informazioni sul traffico, perché poi è tornato, cara Veronica, un personaggio a trovarci. C'è Guido Baldo che si aggira qui e vuole dirci qualcosa. È bravo. Faircam Transport, puntuale ed efficiente nel rispetto dell'ambiente. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta i funamboli. Qua se non entro non parlo per mezz'ora, poi, perché ecco appunto, no, perché siamo ancora a prendere il giro. Peter Bescapelli dice devi prendere il giro. Oh, amico mio, mica faccio il DJ a Radio Squacquerone qua. Bravo Peter Bescapelli, ecco. È un bravo regista, bravo. Tu sei bravo, ma che bravo. Sei bravo, no. Bravo regista radiofonico, bravo. È arrivato Guido Baldo. Buongiorno, salve. Buongiorno dottoressa Gentili, buongiorno dottor Milan. Bravi tutti e due, bravi. Grazie. Oggi sul pezzo, sempre pronti, sempre presenti. Bravi. Grazie, non avendo grazie. Di meglio, diciamo bravi a voi. Diciamo che i suoi complimenti sono così rari che sì. Ce li teniamo stretti. È evidente che sono sentiti e sono mirati. Ma sa, dottoressa, io purtroppo non vivo la realtà sociale, anche modaiola, diciamo, che vivete voi. Ecco, io vivo nella mia Tursis eburnea. Sa cos'è la Tursis eburnea, caro sì. Milan? La Tursis eburnea. Bravo. Lei è una persona di cultura. Una cultura minima, proprio basica, ma comunque. Un minimo di cultura c'è anche in voi due. Bravi. Io vivevo minima nella mia Tursis eburnea e poi ho cominciato a camminare per strada, a guardare la televisione, caro Milan. Mi sono reso conto dell'Italia in cui viviamo. È un'Italia che sta precipitando nel baratro senza punti di riferimento. Basta dire che lei, caro Milan, è visto come un punto di riferimento per la radiofonia italiana. Okay. E questo fa capire in che punto basso siamo precipitati, caro Milan. Per non parlare della dottoressa Gentili. Ecco. E quindi, cari miei, ho deciso di fondare un partitino che si chiama proprio Il Partitino. Bello. Perché ho capito che in Italia per contare non bisogna avere il 30-40%, basta avere un 4-5% e rompere i maroni agli altri per avere un appaltino, un sottosegretarino, qualche soldino e anche poter imporre le proprie idee, come insegna Casini. Lei sa Casini, no? Casini, bravo Casini. Bravo. Che danni. Casini, Pier Ferdinando Casini. Bravo, che da anni popola la scena politica italiana. Come si chiama? Me lo ridice. Pier Ferdinando Casini. Casini. Grazie. Che da anni è lì sulla scena politica italiana con lo stesso consenso che avrebbe un vegano dentro il circolo della costata di Fiesole. È bravo Casini. Quindi io voglio proporre tre piccole cose che sicuramente potrebbero migliorare la vita dell'Italia. Per esempio, il programma del partitino. Si parla molto di extracomunitari in questo periodo. Giusto. Allora io propongo l'obbligo di integrazione per gli extracomunitari. In che modo? Obbligandoli, come fanno tutti gli italiani, una volta al mese a passare l'intero sabato pomeriggio all'IKEA. Se l'extracomunitario resiste a questa terribile usanza degli italiani, ha diritto automaticamente alla cittadinanza. E come inizio della nuova vita gli diamo di default una libreria Billy. Questa è interessante. Questo è ius soli, ma molto più efficace, portiamo l'extracomunitario con la famiglia a pascolare una volta alla settimana all'IKEA e poco una volta al mese, e poco una volta si integra nella vita italiana. Più efficace e più semplice dello ius soli. Poi una seconda proposta che riguarda un politico, caro Milan. Sì, siamo al programma del partito. Silvio Berlusconi, si dice può candidarsi, non può candidarsi. Bravo. Silvio Berlusconi è bravo. Allora, io dico che si può candidare, può anche essere eletto Presidente del Consiglio, purché si presenti in campagna elettorale agli italiani senza trucco. Perché? Perché Silvio Berlusconi ormai ha 81 anni, una persona di una certa età, e fare il Presidente del Consiglio è un lavoro faticoso che comporta anche dei viaggi. E gli italiani devono essere sicuri che lui possa sottoporsi a questa fatica anche dal punto di vista fisico, per il bene d'Italia. Quindi Silvio Berlusconi può essere eletto e anche fare il Presidente del Consiglio, purché si presenti in campagna elettorale senza capelli posticci, senza cerone, senza cintura del dottor Gibò. E gli italiani, se vorranno, potranno votarlo, sapendo però a che cosa vanno incontro? Una persona che ha anche diritto di riposare. Come, certo. Ecco, e l'ultima proposta riguarda Matteo Salvini. Proibizione per Matteo Salvini di fare i comizi con le felpe con il nome delle città. Per questo motivo. Allora, Salvini dalla parte degli italiani dice sempre, poi mette quelle felpe che sono tutte fatte in Cina. Ma dov'è la coerenza, Salvini? Cerchiamo di essere più coerenti, Matteo Salvini. È troppo facile. Vai a Cuneo e fai il comizio con la felpa con scritto Cuneo. È una captatio benevolente. Sei veramente un uomo coraggioso. Vai a Cuneo e fai con la felpa con scritto Tortona, per dire. Poi vai a Tortona, fai il comizio con scritto la felpa Reggio Calabria. Questo sarebbe un vero atto di coraggio di una persona che veramente vuole governare tutta l'Italia. Perché la Lega va in questa direzione, mi pare. Però anche Salvini com'è? È bravo. Comunque è bravo, sì. Allora io propongo di votare il nostro partitino. Lo trovate nelle migliori cabine elettorali. Beh, il partitino. Non nelle migliori, bravo, però. No. Tu sei molto, molto bravo. Va bene, insieme a Leonardo Manera oggi siamo proprio in strachiusura. Mancano 10 secondi, salutiamo l'ascoltatore che al 349-238-6666, cara Veronica, caro Leonardo, ci scrive un grande applauso. Veramente questa trasmissione è orribile. Grazie, bravo questo ascoltatore. E questa sì che se la portiamo a casa. Oh, i funamboli tornano domani puntuali alle 9, caro ascoltatore. Ma bellissimo. Ciao. Leggo la poesia del celebre poeta bosniaco ceco. Ricordo di te, di quando vincevi. Mannaggia voi a Valerio Rocchetti, ciao. Prova ad arrivare in zona tiro. Ceco, rete, bellissimo, e Roma in vantaggio.